che fastidio darà se vai a uscire oggi come oggi con questi baracchini che non c'è nessuno e vai a uscire dal canale 40 per farti un DX, per farti un collegamento d'estate quando c'è la propagazione, che fastidio dai, siamo sempre riguardante la CB, no? Se c'è propagazione in banda laterale sul canale per dire 45, ma che si vada a fare questi collegamenti, e se non perde nessuno, quindi vuoi andare, se non ne approfitti in quel periodo fui. Io sai che ero 40, buh. Ehi, aspetta, mi sta venendo un crampo, ai, al piede. Sì, infatti, cioè sembra quasi che, cioè già siamo pochi, no? Se in più cominciano a stringere anche sui DX, poi queste notizie sono andate a verificare, però Gianfranco è anche affidabile abbastanza come fonte, no? Conosce molto, è molto dentro queste cose, no? Dove volevo arrivare? Sì, che cioè già siamo pochi, se cominciano a stringere, a controllare, a sanzionare, a fare ascolto, per vedere chi va fuori banda, magari oltre il 40, poi la concessione abolita, ecco, cioè io la vedo come se fossimo anche almeno tutelati con questa storia che la concessione non si paga, cioè libero uso, però non abbiamo, già non avevamo esclusione dalle interferenze, cioè ci dovevamo assorbire le interferenze, adesso magari se ne crei, ti fanno casini doppi, insomma un po' ambigua questa storia della liberalizzazione, come la vedo io, ma perché in tutta Europa già non è pagabile concessione, non si pagava nulla, però che l'abbiamo fatto in Italia è un po' strano, perché qua tutto quello che ti possono tassare te lo tassano, è strano che l'abbiamo tolto, anche se era una, praticamente era il recepimento della direttiva europea, vabbè, prendiamola per buona. Ma infatti, ma che fastidio daremo, io non lo so, anche se compriamo, l'hanno fatto, hanno tolto la concessione per far sì che i negozianti vendessero più baracchini, no? Con la scusa che non c'era, ma non è cambiato niente. No, gente nuova non entra. Anche quando chiedevo a amici per curiosità se volevano fare l'esperienza, dice ma per carità, dice a comprare alimentatori, a zuffarmi col condominio per un antennino magari messo sul balcone, no, dice non ne vogliamo sapere niente, e poi ormai ci sono i social, quindi tutto si svolge sui social, Facebook, WhatsApp. Non ne vuole sapere niente di radio, non, nessuno. Boh. Mi chiedo anche se all'esame, ma radioamatori nuovi ne stanno entrando, tipo a Sassari, c'è gente che dà esame, vabbè, a parte il Covid adesso è un casino, o anche lì si sta riducendo l'affluenza, Luca? So che li hanno messi online, infatti molti hanno, così so, abbandonato chi aveva fatto domanda per esame, poi hanno tolto questa cosa di farla online tramite webcam, tramite non so cosa, e si sono molti ritirati, capito? Per esempio Francesco ha passato l'esame, luna rossa, tranquillo, mi ha telefonato, infatti, tranquillo, contento. Ah, Francesco Luna Rossa, alias Radio Killer, alias Francesco PRT, buono. Sì, è già un mesetto ormai che ha dato l'esame. Ma lui l'ha dato orale? A me mi terrorizzerebbe molto farlo, perché io mi blocco. Anche a scuola, all'orale mi blocco, non riesco ad andare avanti. Molto meglio lo scritto, almeno sei per conto tuo, seduto al banco, non ci hanno insegnato davanti, che ti fa il terzo grado, capito? Non lo so, beh, credo il vecchio esame, no? Perché tra il Covid è già iniziato, vabbè, aprile, forse è riuscito a farlo ancora in tempo utile. Vabbè, sono contento per lui, tanto lui sempre faceva video di apparecchi lineari, misurazioni, e poi la storia del PEP. Mi è piaciuto molto il video che parla del PEP. Dice, i watt picco in AM non sono reali. E questo spiega tante cose. Se ti dicevano che uscivano con 400 watt, no? lineare 400 watt, poi andrebbe a guardare il finale lineare, guardavi il datasheet, no, la scheda del finale, facevi i conti quanti finali aveva, non poteva dare quel wattaggio. Infatti ha detto, vanno misurati una bugina M, gli altri sono watt fittizi, non reali, eccetera. Dice, le prove le faccio anch'io per fare prove comparative con gli altri, però dice, nessun tecnico serio vi misura in AM i watt picco, vanno misurati in AVG. E gli spiega tante cose. Dice anche ai laboratori di 48, no, che prima della modifica ti misuravano i 4 watt in AVG, no? Dopo la modifica te ne facevano vedere 100 e magari poi invece reali erano 25, capito? E si quadruplica, mi pare, quando vuoi misurarli in picco in AM, che però sempre sono, ma poi te ne accorgi anche dall'assorbimento degli ampere, no? Te ne accorgi che sono watt fittizi, non reali. Sì, ma la gente piace, piace vedere la lancetta che sale, capito, del rosmetro al massimo, però lo mettono apposta in PEP. Sì, sicuramente gli elaboratori di 48 colte, no? Ti fanno vedere i watt picco e così magari chi non lo sa si autoconvince che i watt siano quelli, invece siano molti di meno. Ma poi ripeto, basta l'amperometro dell'alimentatore e lo vedi che non sono reali, cioè, vabbè, ok. Così, ma adesso ho sempre una VG, adesso sono per esempio 4 watt, anzi neanche 4 watt, se fischio però va oltre i 20. Sempre in AVG però, cioè quelli sono reali. Sì, anche per usare questo rosmetro in AVG lo devi attaccare all'alimentazione, capito? Perché dietro c'è il tastino AVG, ma PEP e PEP hold, capito? Cioè il pulsante c'è davanti, ma lì devi dare l'alimentazione sia per la luce sia per il PEP. E io PEP non ne attacco mai, non ne uso mai. Ma giusto la banda laterale è utile, perché almeno ti fa vedere sai che la lancetta sale e scende velocemente, almeno puoi fare anche il blocco del PEP dietro, hai visto la levetta, cioè ti tende a bloccarsi sul valore massimo, così hai un'idea sommaria della potenza massima possibile in banda laterale. Deia, molto molto bene. Infatti Luca, a me, io adesso non voglio dire, poi non lo compro. Io mi sono conservato i soldi, sono già sulla scheda, io mi voglio regalare quello strumento, perché francamente questi rosmetri ZG o quell'altro piccolo della Proxel mi fanno schifo, io voglio le stazionarie reali, cioè voglio uno strumento affidabile per usi futuri e non solo futuri, in modo che quando mi controllo le antenne veicolari mi dia le stazionarie precise, e anche per l'antenna di qua, capito? Tanto sto sempre facendo prove. Antenne in macchina ne ho una, quella 27, dico una, due, tre, quattro ne ho. Ogni tanto li faccio piccole tarature, se si, sai, magari si oscidano un po', perdono il centro banda, quindi voglio uno strumento affidabile. Certo, la spesa è notevole per uno, però d'altronde è fatto bene, poi non devi stare a fare il fondo scala, perché molti, Giulio mi aveva consigliato, anche l'altro Luca mi aveva consigliato il Proxel SX200, però anche lì devi stare sempre a fargli questo fondo scala quando cambi banda, quello è più immediato. E poi diciamola tutta, che il Diamond c'ha solo 200 watt di potenza massima, c'ha continuo in AM, vabbè, io non sono linearomane, però sai, usi futuri, che ne so, meglio avere uno strumento un po' più che abbia un range fino a 2 kW, così un range più ampio, capito? Questo lo faccio io, il 901 HP, questo arriva fino a 2 kW, fa da 1,8 a 200 MHz, capito? HF, VHF, poi alla scala 20, 200 e 2 kW, AVG e PFP, ed è automatico di Ducannuda, capito? E poi devo lasciare Poggio Maggiori, sempre il vizio, mi è venuto il vizio di molti, a pigliare subito. Sì, ma sai perché, anche siccome la mia vista non è, vabbè, da vicino ci vedo, però uno strumento grande aiuta, in più è illuminato, mi pare con LED, quindi è un bijou quando è illuminato, in più volendo c'ha la misurazione del PFP, che è comunque comodo in banda laterale. Insomma, secondo me è una spesa fatta bene quella, cioè invece di avere uno ZG che proprio sono tutti sballati, l'altro piccolino mi è caduto a terra, e poi c'è uno strumento piccolo piccolo che va i silloci, cioè anziché comprare, detto tra noi, un baracchino dietro l'altro, che poi sono tutti uguali questi CRT, mi regalo un bello strumento, lo tengo bene, non lo faccio cadere, cerco di tenerlo bene. L'altro era andato, ti ricordi quel, cos'era, MFG, era Rosmetter accordatore, sparito, non l'ho più trovato, vabbè. E quindi io sono pronto all'acquisto, sta per arrivare da Media Globe, è un prezzo sempre minore di tutti gli altri, prenderò l'HP, quello da 2 kW, non l'HP3, HP3 non mi piace quella scala, capito? Mi piace più quella da 2 kW, tanto a ganda 2 kW. Oh. Ah, non prendi il Daiwa? Sì, sono rientrato. Ehi Anto, sì, lui è più comodo, cioè strumento enorme, a me interessa lo strumento che sia di leggibilità piena anche se non c'è gli occhi attaccati, quello è impagabile, è un bijou quel coso lì, e che sia preciso, sperando che anche esca bene di fabbrica, perché ho letto alcuni radioamatori che sono americani, che ne so, gli è uscito l'esemplare difettoso, non gli segnava i watt, non gli segnava stazionario, ha dovuto spedirlo indietro, vabbè, comunque per gli acquisti online c'è sempre quella cosa che glielo puoi rimandare indietro, dai. Quello sì, no, adesso funziona benissimo. Lo strumento è bello grande. Se li comprerei questo fammelo sapere, se vuoi io lo prendo direttamente, l'ho preso questo direttamente, diciamo dal produttore, dai. Dal produttore? Ma l'importatore per l'Italia o un produttore estero? No, in Germania. Ma Daiwa è giapponese comunque, sarà forse l'importatore tedesco, diciamo, dai. Comunque Media Globe è i prezzi migliori di tutti, Media Globe. Gli altri sempre quei 5-10 euro, anche 20 euro in più te li mettono, quindi. Adesso, io ogni volta che lo dico prima, poi non nego un pareggio, infatti devo star zitto, però l'idea è quella. È inutile avere roba ZG, io roba ZG non ne voglio più, ha solo dato problemi, o si brucia la sezione accordante, o quella non ti segna stazionari, oppure watt tutti sballati, cioè non ne compro più ZG, basta, sono rotto le balle. E comunque ancora costano, sto guardando i prezzi, 165, 185, nulla. Ma quale, l'HP? Il Daiwa? Il Daiwa è il CN901 come il mio. Prezzi lontani proprio. Lascia vedere, adesso guardo Media Globe, avanti a tu. Guarda, è un bel che li fanno pagare già. C'è già uno strumento ZG, ci vanno in bagarre. Un bel, cioè, perché è anche troppo, per quello, la qualità che è anche troppo. Se li fanno pagare abbastanza. Allora, c'è cosa Selma Technology, 140 euro. Sì, forse l'ho visto, mi pare un negozio di Siracusa, solo che sai cos'è, non ho familiarità lì, Media Globe mi conosce, il sistema di pagamento collaudato, cioè sono cliente la Media Globe, preferirei continuare lì, ma se no 10 euro in meno, oddio. mi ci atteno, le spese di spedizione, come si dice Luca? Compenso le spese di spedizione, 151 Media Globe più le spese di spedizione, no, vai su SM Technology, che è bravo, no, lo conosco io, no, ma vai tranquillo, se no chiedo dove l'ho comprato io, se hanno cambiato i prezzi, se hanno abbassato. Ma cos'è un Wi-Fi? Cos'è? È il Rosmetro Wattmetro come quello che ho io. Media Globe, dove lo vuole comprare Marco, 151, che SM Technology c'era 140, è una bella differenza comunque, Marco. Sì, magari 10 euro in meno, vabbè, non mi fanno più ricco mio. Poi mi dovrei registrare ex novo, come nuovo cliente. No, vediamo cosa fare. Poi magari Media Globe qualche regalino te lo fa, no? Non ci compro mai da loro. Io compro da Salvatore Billicci. Salvatore Billicci? Allora, qua c'è, vediamo un po', c'è il 900 HP, 138 e 44, perché cambiano parecchio i prezzi, dipende da uno quanto ci vuole guadagnare. Quello della ZG Tunguska, l'HP 1000. Non è compagno ZG. Niente, ZG Antu. Antu, però quello ti fa anche da accordatore, quello è una cosa utile. Poi penso che sia un po' più curato. Guarda, la KP1000 già ti costa 150 euro almeno. Questo è solo Rosmetro Wattmetro, però è già... Qualcuno l'ha paragonato al Bird, ha fatto le prove comparative, sembrerebbe, vabbè, il Bird è Wattmetro, però non credo sia Rosmetro il Bird. Comunque l'hanno comparato con altre cose, abbastanza affidabile Daiwa, abbastanza, beh. Oppure hanno fatto, Luca, le prove comparative con gli analizzatori d'antenna, no? E hanno visto che bene o male il Daiwa è abbastanza fedele, no, abbastanza, un bel preciso, diciamo, dai. Non lo so, io c'ho il Rig Expert. Eia, cos'era? La AA600 il tuo? Il Daiwa, cioè, è uno fra i più conosciuti, è il migliore. Eia. Sì, era buono anche il Diamond 6200, però ti ho detto, strumento più piccolo, 200 watt di fondoscala massimo ammissibile, picco sicuramente, cioè in mano laterale, continui, penso ne puoi dare un terzo, massimo la metà. Usi futuri, non si sa mai. Usi futuri, dico. Poi. No, Marco, il mio è il 35 zoom. No, poi ho comprato, non so se te l'avevo detto, il Surecom VEU, quello digitale, il Rosmetro, che è molto molto bellino. Aspetta, il Surecom, quello VEU, display azzurro, allora è lo stesso che ho preso io, che ti segna la frequenza, i watt, diretti, riflessi, la percentuale di potenza trasmessa, quello lì, l'SV102, sì, che è carinissimo, poi però non so se sia preciso il lui. Io l'ho confrontato con quello a lancetta, vabbè, marca Proxel, però qualche differenza c'era, e adesso non so quale sia il più preciso, se quello elettronico oppure con la lancetta. Ma io l'ho paragonato, c'è poca differenza, tipo 1.01, l'altro 1.02, capito? No, è il 102 io c'ho, il 102, l'SV102. Aspetta che controllo, sì, ma dovrebbe essere quello che tirano anche gli spinottini adattatori, e lo puoi mettere anche in verticale, cioè tra portatile e antennino lo metti in mezzo e ti misura anche le stazionarie degli antennini dei portatili. Sì, per quello l'ho preso, perché ti misura anche i milliwatt, capito? Proprio il watt ti misura, così che le stazionarie le vedi bene, eccetera, eccetera. SW102. No, è molto comodo perché appunto lo attacchi a un portatile, lo attacchi portatile proprio, bello, ti misura in contemporanea sia la frequenza sia il watt che stai dando. Questo se non vado errato arriva fino a 100 watt. Sì, sì, carino, lo carichi tramite USB, anzi l'ho usato poco, comunque ti devo dire che gli antenini dei portatili hanno riservato delle sorprese, cioè certi c'hanno 1,5, certi c'hanno 3 di stazionarie, addirittura, ti faccio un paragone, è presente gli antenini Intec che dovevi mettere, che ne so, sull'Intec, sul PMR della Intec, no, quello che tiravano loro. Allora, con qualsiasi apparecchio, ho detto magari l'impedenza non si adatta, no, 8 di stazionarie. Questo antenino, ti spiego, tempo prima l'ho provato sui vari BAO, sull'UV3, sull'UV5, in qualsiasi apparecchio lo mettevi, questo antenino marcato Intec andava male, ricevevi male, trasmettevi male. Lo vado a controllare con quello strumentino, ci aveva 8, quasi 9 di stazionarie, una gagata, mi ha detto a parole terra a terra. Sì, no, è comodo. Anche ho notato che gli antennini Bofeng, infatti li ho tarate tutte quelle che ho, perlomeno quasi tutte, perché ho sballato in V e ho sballata in U. Naturalmente lui, io gli ho misurato solo l'UHF nella banda solita, no, PMR è l'unica che posso usare. In V non l'ho manco testato perché non mi interessa. Però caspita, ci sono delle differenze notevoli. Anzi, ti devo dire Luca che questi Baobao hanno una resistenza dei finali notevole, perché la media di stazionari è 2, 2, 2,5, 3 di questi antenni Baofeng. Io credevo che dopo il 2 si crepassero all'istante i finali, invece già resistono, caspita. Sì, sono tutte sballate quegli antennini, sì. Qual è il tuo? Sto aprendo questa stampante, dai. Sì, ok. Non so quanto vanno. Vabbè, sono fatti per quello, sono fatti. Di certo non è come... Cioè, anche i portatili della 27, sicuramente come stazionarie non è che siano un granché, no. Cioè, no, i finali molto resistenti, se lo fanno dirci si crema subito. Antonio, guarda le foto, non so se le hai già viste, il Daiwa, molto bello, PEP, hold, sì, puoi bloccare la lettura del TP, luce on off, l'alimentazione, sì, è vero, per misurare la potenza picco picco in SB ha bisogno dell'alimentazione, e c'ha un circuitino, non so. Così adesso mi piazzo il gel, il coso, domani compro il connettore e me lo piazzo in quello, come si dice, me lo piazzo nel ZG e lo proviamo a vedere come esce, nel microfono a tavolo. Spento, sto guardando quel video che mi avevi mandato, si vede un... Cos'è, un superstar nero? Ah sì, c'è la prova tua rispetto a Natalino verso Luca Manicomio. Ecco, sì. Guarda un po' com'è. Sì, sì, più basso Natalino, mi pare, sì. E siamo lì su per giù, siamo lì. Poi Natalino ha attaccato appena appena di più per vedere se pompava. Capito, sta succedendo? Ma sono io. Sì, c'è quel famoso inneschino, quello... Adesso sta innesco e starà finendo la batteria. Ah, roba microfonica? No, adesso è tranquillo. Ma casa non avete, Come Luca? A casa. Casa non avete. Sì, io già sono sempre a casa. Eia, voi avete mangiato, no? Anche Antonio, Luca. Io ho mangiato, sì, è un bel pure. Ho sgubizzato 82 kg peso. ci vanno sempre 78, 77 così. È ingrassato di brutto, È roba buona, cioè. Sicuramente mi sta finendo la batteria, mi sta, per quello che sei. Ai ai ai. Come va la tensione così basso? È così basso. Anche a Corove. Ehi, vabbè. Sono staccato. Ah, ok. Marco, io quando mangio mangio, poi vabbè, mi strafogo, guarda qua. Ehi, aspetta, stavo guardando una cosa. Ah, ecco, c'erano i messaggi. Oggi non riesco. Le faccine, quello che. La lacrimuccia, aspetta, gli occhiali. Ok. Ah, belline, belline gli emoticon. Addirittura quello col monocolo c'è, con l'occhialino, ho letto. Ora questo sei sempre basso, Luca. Prova. 2-3 prova radio. Ma qua più basso, sì. No, no, Anto, c'è qualcosa che non va. Sei sceso e sei come strappato. Sceso un bel. No, infatti Anto, non mettere lineare, non sia che ci sia qualcosa all'antenna. È disceso anche qua, io qua me ne accorgo meno, ma è di 9.15 più o meno. Circa 9.20, ma un po' troppo basso in effetti per me. Non è normale. Quasi tu, Marco, sei sempre lo stesso, poi c'è il problema, non è mio. È tuo. Infatti Marco lo squarci mi apriva prima, pensa giù. Ah, sì, sei tu. Vabbè, ci sa qualcosa allo spettrone. Sì, adesso sei tu. C'è qualcosa allo spettrone dell'apparecchio. No, stazionarie sono quasi 1.1, dai. 1.1? Sì, quasi 1.1, 1.1 qualcosa, dai. No, qua Marco si muove, dalla banda A alla banda E, non si muove. Vabbè, adesso non c'ho Rosma dove c'è la casa della mamma. Ma non si muove niente, però prima quando l'ho piattata sì, chissà perché, blu, non lo so, nulla, non si muove di niente, non vuol dire niente, però ci posso anche attaccare la lineare volendo. Sì, fino a 150 watt resista, chissà che cazzo gli è preso, blu. E anche 747, ma non me la futti nuda attaccare nuda, va, cosa ne attacca a fa? Va. Oggi ci c'è qualche cosa da fare io. Aspetta a vedere che facciamo una prova. Lo spezzone è qualcosa. Cosa fare la prova? Siamo che se spezzone mi sia andato in oramara. Provo attaccarlo allo strumento qua. Vediamo un po' cosa dice. Adesso mi faccio in soldi di 3.900. E va, quello cromato. Sì, quanto ho pagato? Io ho pagato 120 lo spedito. Più adesso me lo dici che mi devo comprare il Rosman, però Marco di mano non lo do, ripeto, non è che mi servono soldi urgenti, no, dopo quello modificato vediamo, sono un po' indeciso a prenderne una magari più seria, là, tipo un 4.30 quindi. La guarda a vedere, prova 2-3 prova la molte mala numero dino, se sei tu. Il piede mollato c'era. Sì, sei tu liscio, Anto. Guarda a vedere, tutto sta andando. C'è il piede mollato. Sì, adesso è 9.30, adesso è con linea retro. Il piede mollato c'era. Allora? Già lo credo, Luca. Vabbè, succede. A proposito, stai a vedere, perché l'altra volta... Io prendevo scossa qua, lo sai, Marco? Allora, se io attacco... come si chiama? Ah, tu vuoi fare una prova, aspetta, arrivo, due secondi arrivo. Fai. Ehi, ci avrà un po' di dispersione. Un po' di dispersione, dai. Poi mi dirai se è l'alimentatore che dà la scossa. Oh. Vabbè, io Anto. La verità, stavo per comprare l'alimentatore come il tuo, come quello di Luca, per tenerlo come scorta, no, quelli piatti, quello a 50 ampere però volevo. Solo che in fin dei conti non mi sono fidato per il tanto, non... Poi questa morsettiera che c'ha, questi fili da... Cioè, preferisco alimentatori veri e propri da... per radio, per laboratorio, capito? Già gli attacchi pronti, la strumentazione, non lo so. Poi ne ho già due, c'ho questo che è quello da 30 ampere, switching sempre, però quelli con l'amperometro, il wattle, il volumetro, e poi ne ho un altro senza strumenti, però sempre già di quelli da baracchino, dai, grandetto, bianco, ed è da 7 ampere, 9 di picco, switching sempre, senza ventola è quello addirittura. Ah, ma come c'ho io va bene, Marco, va benissimo, 50 ampere, adesso faccio una ricarica e mi ordino il voltmetro e l'amperometro, come si chiama? Eia, mi ha detto, cosa c'è, qualcosa in dispersione che ti dà la scossa? No, oh, allora, guarda se c'ho alternata, senti, A parte l'avventro, ascolta e senti, l'avventro, l'ho messo dietro il coso, vai. Ma mi sembra di no. Non sento nulla. Sì, se attacco quello del computer, tocco il PL e mi dà la scossa. Non sento niente, Lu. Quella è la massa a terra, sono problemi di massa a terra. E questo qua cosa non me ne dà? Io attacco l'altro, sì, capito. Ascolta, una curiosità, Luca, ma sulla morsettiera o comunque l'alimentazione, la 220, devi rispettare una fase, un neutro, li puoi invertire? No, devi rispettare la fase del neutro. Non penso che si possano invertire. Comunque quando giri la presa e l'inverti comunque. E quindi sì, un po' di dispersione c'ha. Oh, vabbè. Pensa che qua in questo condominio è 20 anni che stanno parlando di messa a terra di tutti gli impianti, 20 anni che ne parlano, in più non hanno fatto nulla. Qui messa a terra non vi ne è. Comunque, siete 2 ore che parlate in due ore. Datevi il tempo di riprendere uno con l'altro. Comunque, vabbè, l'avvento lo attacco, perché mi guarda. Io la sento, mi dà fastidio, mi manda anche aria fredda. Siccome c'è fresco, questa camera non c'è manco bisogno di attaccarla, vero? Allora te dico una, Luca. Allora io ho un alimentatore Proxel, no? Quelli con strumentazione, quelli alimentatori da baracchini, da radio, quelle. Questo aveva la ventola e siccome la ventola era ormai rovinata, faceva un rumore ronzio, un casino, l'ho tolta. C'è uno spinottino, l'ho tolta, perché questo alimentatore, ventola o non ventola, rimane freddo, freddo. In estate appena appena raggiunge la temperatura corporea, no? Non caldo tipico, proprio temperatura corporea. In inverno io lo tocco, anche dentro ho toccato i componenti, è freddo, quindi la ventola non mi serve a nulla, anche perché uscendo con 4 watt cosa mi rivolgo di... non lo stai sollecitando nulla, capito? Vai Antu. Capa, no, io l'ho messo sotto e mi dà meno fastidio. No, l'ho messo sotto. Sto usando quello della GBC, sto usando l'alimentatore, a volte uso quell'altro, quello da 5 ampere che mi ha dato una persona, poi sto usando quello da 7 della GBC e per questo apparecchio così va bene, ce n'è, va bene, ne avanza pure, però quando devo attaccare l'amplificatore allora uso quell'altro, uso quello ventilato. Vabbè, là, siccome io sono anziano, vado a riposarmi, ci sentiamo stasera alle 17, ciao. Facciamo tutta una tirata, Luca, tu entra alle 8 e ci troverai ancora qua. Sì, sì, e rimani tutta la sera al baracchino. Io verso le 5 attacco, là, 17, là, ciao, più tardi. Ciao, ciao, buon riposo, Lu, ciao. A buon riposo, Lu. Antu, anch'io avevo un alimentatore, mi pare 5 ampere continui, 7 di picco, della GBC, ed era un alimentatore col trasformatore. Adesso ti mando la foto del frontale e mi dici se è uguale, sicuramente è quello. Sì, l'avevo detto, ti romando. Sì, se il mio è tutto impolverato, mi è arrivato il messaggio. Però qua si era rovinato un componente che ho visto uscire... Un grosso, mi pare, condensatore, c'era dell'acido, quindi sicuramente è da revisionare, però io non ne tocco, non voglio sapere niente, casomai lo do a qualcuno. Beh, tu pesanturizzami, 5 ampere, ma cazzo pesa 3 kg, quant'è? No, è 7, il mio è 7. Allora, è un po' diverso, è un po' diverso, c'ha le scritte gialle, però guarda che c'è scritto 7 ampere massimo, quindi 5 continui, sicuramente 7 di picco. E questo era stesso, mi pare, 5 continui, 7 di picco. Però voglia se ce n'è, anche se usi 20-30 watt il russo, non hai problema alcuno, Antonio. E avanti. Luca, sei tu? Stavo facendo un video a Antonio del Rosmet, che gliel'ho messo vicino al 706, gli ho fatto vedere che è più alto del 706 anche. Eia, sì, il 706 poi è... Ma è considerato veicolare il 706 o no? Interrogativo. Sì, mi pare piccolo che io ricordi. Eia, sì. È un veicolare, ma è comodissimo, guarda. C'ha un bel display. È veramente bello, funziona benissimo poi. E funziona bene anche la M appunto. La modulazione, se è questo, ha solo la modulazione un po' metallica, forse la timbrica del mic che gli hai messo, ti ricordi, ne avevamo parlato, un po' non metallica, scusa, acuta è. Magari il K esce più caldo, capito, con la modulazione. Ma tu K ne hai più, Lu? O hai ridato tutto? No, non ce l'ho più, no. Ma questo è l'SM20, ma anche lo 60 lo fa, perché c'è attacco il 60 ed è la stessa cosa. Ehi, Anto, sto preparando una foto del frontale del mio, no? Poi siamo lì, quello che tu praticamente era la versione precedente, però la lonfiata della GBC, sai cos'era? Che sul frontale del lineare c'è scritto da 6 a 8 ampere, poi sotto, sull'etichetta col codice, sotto il lineare, ma scusami, sotto l'alimentatore c'era scritto da 5 ampere continui a 7 di picco. Cioè loro hanno usato lo chassis di uno più potente e ci hanno messo poi l'etichetta del vero... E così anche sulla scatola, sull'etichetta della scatola, c'era scritto da 5 a 7 ampere. Però traino inganno, infatti ti faccio vedere la differenza tra il frontale e l'etichetta, è quella che vale l'etichetta, riprendi a tu. E K, no, io ce l'ho tanti anni, ce l'ho tantissimi anni col GBC, uno dei primi che avevo comprato, ha funzionato sempre di me, cavolo, non mi ha mai sgarrato un colpo. Sì, infatti perché con il sattore, con il trasformatore sono dei carri armati. Io diciamo l'ho trattato male. Se tu guardi, quando ha smesso di funzionare, no, l'ho aperto, io dentro ci ho trovato l'impossibile. Allora c'era tanta di quella polvere, perché io lo lasciavo a terra, no? Magari passavo il moccio, passavo la scopa, si solleva un po' di polvere, no? Entrava dentro, passavo il moccio, magari qualche cosina entrava ai lati, insomma dentro era pieno di polvere da far schifo, peli di gatto, e un ragno ci aveva fatto una ragnatela che riempiva tutto lo scatolato del lineare, capito? E il ragno ha preso casa lì perché era bello tiepidino, capito? C'era il calduccio lì quando era acceso. Fai Luca. Adesso gli devo dare una polveratina, gli devo dare. Un pochettino di polvere l'ha pigliato. Sono anche qua. Ma comunque il mio funziona bene, la verità. Di quella roba non ce n'è mai entrata, penso, lì dentro. Ce l'ho un saccaccio di anni, ce l'ho. Il minimo ci avrà. Se voglio dire una cazzata, sono un alimentatore di almeno 15 anni. E sempre funziona. Comunque è quello, Anto. Sì, è uguale a quello di Luca, quello che vorrei prendere io, vorrei. Dico, ma poi se ne parlo troppo non lo prendo. Poi sai, un imprevisto, magari domani mi si brucia il cellulare, vedi, e la priorità la devo dare al cellulare nuovo. Aspetta che mi tocco le balle. Papà, un sacco di anni quello lì io. Ma guarda, ne abbiamo uno in magazzino da babbo, minimo ci avrà più di 20 anni, ci avrà. Ma se tu l'accendi è come il primo giorno che l'hai comprato, alimentatore buono a vero, da 10 ampere, pesa un trono, ci vuole spazio a metterlo. Però stiamo parlando un Elbex, minimo di 20 anni fa. E io dammi il tempo un attimino, con questi affari mi azzuffo sempre a cercare la cartella giusta con le immagini. Fai. Uia gas, a rimane invece barra dururetto, c'è dovuto da contallo. Ma montendi? E vabbè. Vabbè. Alla fine la sollecitazione si può rompere il letto. Vabbè, la felizzai. Tu ya, troppo carino. Quale sono? Troppo carino, uia. Ando. Ho trovato che mi ti gocco. Eia. Ma no, io ho provveduto stamattina. E infatti anche io stacco adesso, magari non dico che riposo, ma qualcosina la faccio. Tanto non puoi uscire dal comune, vabbè, pazienza. Chissà che passi questa cosa prima o poi. Oh. Luca c'è ancora, dai, così ci salutiamo e chiudiamo tutti, dai. E ci sono da mezzogiorno e mezza in radio, cosa inusuale, io ho tutto o niente, o sto giorni e giorni che non entro, oppure poi si sto ore tutto assieme. Io, va bene Marco, visto che lo smetto giù io. Che va bene, ci sentiamo più tardi allora. Ma, Marco, però è più un giovane del mio. Sì, questo l'ho comprato, credo, all'inizio degli anni 10, dopo il 2010, dai, prima modulavo dalla macchina, però 2010, 2011, 2012 massimo, più recente, però guarda la lonfiata, davanti c'è scritto da 6 a 8 ampere, no? Generico, invece sulla confezione, sulla scatola e anche sotto è scritto da 5 a 7 ampere, quindi... Capito, io l'ho visto in esposizione, tra in inganno, capito. Poi c'era il modello più forte, che arrivava fino a 10 ampere, mi pare da 10 a 12 di picco, ma costava un bel di più. Tu conta, questo alimentatore misero da 5 ampere alla GBC, no, 5-7 di picco, al trasformatore. Nuovo dalla GBC impara una settantina di euro. Con gli stessi soldi online prendi uno switching da 30 ampere, che problemi in realtà non ne ha dato, a parte la ventolina che si è cliccata. Ho visto anche il ricambio della ventolina, l'ho trovato uguale. 8 euro impara o meno e gliela potrei cambiare. Però c'è un però. Che se prendi uno di quelli così switching c'ha la sua durata, se prendi un alimentatore del genere ti dura un sacco di anni. Però Anto, come vedi, questo GBC sì, avrà preso polvere, però bene o male tutti, anche questo prende polvere, tutti gli alimentatori prendono più o meno polvere, dipende da dove li metti. Però questo ha smesso di funzionare dopo, fai 6-7 anni ha smesso di funzionare, fai 8 anni. Doveva essere eterno questo col trasformatore e invece si è rovinato prima. Dipende. Io c'ho il mio più vecchio del tuo, c'ha più di 10 anni, c'ha. Forse anche 15. E va. Poi conta una cosa, magari il trasformatore magari è buono, si è rovinato un condensatore, però ricordati, anche nello switching ti può durare 20 anni, 30 anni come ti può durare 30 minuti, un minuto, condensatori sono quelli che si creano, si rotte e partono, no? Si gonfiano e c'è l'acido e devi cambiare, ma niente di grave. Mi qua con un pochino di spesa lo metto a posto. Questo è che vabbè, adesso ho i due switching e poi non so che darlo nemmeno, a chi lo do? A Pomponi, così me ne batti due. No vabbè, già lo sa mettere a posto, è una cosa talmente semplice che sai, devi andare lì, fusarlo, chiedere se hanno il componente, il condensatore adatto, poi guardare, tolto il vecchio, saldato il nuovo, no, troppo difficile per me, preferisco buttarcelo. Lo mettiamo a posto. E io non amo saldare io, proprio non mi piace, non mi piace. E poi me non ne tocco dentro, io apparecchi non tocco nulla, anche nei computer. Io il computer quando ha problemi l'ho sempre portato all'assistenza, io non voglio sapere niente. Preferisco pagare ma me lo devono mettere a posto loro. Perché se tocco io dentro il computer faccio danno e poi è peggio che mai, capito? Faccio danno e è così. E danno le doppio poi. Va bene, ciao Antonio, buon riposo, ciao Luca, buon riposo. Ci sentiamo quando capiterà, ok? Buona serata, buon tutto. Ciao, buon riposo anche a te. Anche io adesso. Oh, yeah. Aia, io.